non è, non è qui con noi. Qui con noi. Ehi, ehi, ehi, ehi, ma che prendi la festa, festa con i fiocchi. Noi, noi, noi, noi in copricola siamo. Siamo. Stasera è così. Stasera è così. Domani vedremo. Ti dovrei. Cosa c'è? È da un mese più che un debole per te. Per te. Per te. Per te. Proprio te. Non ci speravo più. Guarda quelli, non rido più. Dammi del tu. Soli fra tanta gente, quando la gente sola si trova bene insieme a noi. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, è già l'ora di tornare tutti a casa, tutti a casa, tutti a casa. Dai, attacca il giradischi, presto ci faremo un altro grep. Ha perso chi non è stato qui con noi. Qui con noi. Ehi, ehi, ehi, ehi, finalmente ho trovato la ragazza giusta. Ma, l'ho lasciata per poco. Poco. Domani verrà. Domani verrà. Sbagliare non posso. Sbagliare non posso. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. E domani verrà. Domani verrà. Sbagliare non posso. Sbagliare non posso. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Domani verrà.